Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buona giornata a voi e benvenuti, grazie per essere in nostra compagnia, nostra perché c'è Peter Bescapè in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Andiamo ai titoli del nostro sommario. Glaucoma, parola d'ordine prevenzione. Dai una mano ai tuoi piedi, impara un massaggio per farli stare bene. La ricerca si fa vedere sul web. La salute dei reni comincia a tavola. Oggi mi rivolgo subito ad un ascoltatore particolare. Ha superato i 40 anni, non ricorda l'ultima volta che è andato dall'oculista, non perché soffra di vuoti di memoria, ma perché vedendoci bene, a parte un po' magari di presbiopia che corregge con un paio di occhialini, non ha ritenuto necessario controllarsi. Chiamatemi subito, vi aspetto, 824 0024. Oggi in studio con me due ospiti, è tornato a trovarci il dottor Antonio Scialdone, responsabile dell'unità operativa oculistica prima al Fate Bene Fratelli di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno. Qui accanto a me ho anche il dottor Roberto Carassa. Buongiorno dottore. Buongiorno. Oculista a Milano e referente per il glaucoma della Società Oftalmologica Italiana. Allora, due esperti per aiutarci a prenderci cura della nostra vista, insegnandoci a tenere d'occhio alcuni segnali che possono essere la spia di un problema visivo, ma anche per farci capire ancora una volta che i controlli regolari, dico regolari, non frequenti, giusto dottor Scialdone? Non ossessivi, giusto, sono l'investimento migliore per la salute dei nostri occhi. Allora dottor Scialdone, si dice la vita comincia a 40 anni, no? Ma la vista a 40 anni inizia a darci un po' di problemi. L'età sicuramente è un fattore di rischio per alcune malattie oculari. Recentemente abbiamo dedicato una puntata intera alla degenerazione maculare senile e oggi qui siamo insieme per parlare di glaucoma, una malattia molto frequente, asintomatica nelle fasi iniziali, e quindi questo cosa può portarci a dire? Che ci sono persone che potrebbero esserne affette senza saperlo. Anche in questo caso però ci rivolgiamo a persone che hanno superato i 40 anni e questa è un po' la soglia del rischio, l'età del rischio? Diciamo in generale sì, anche se non si può ovviamente escludere che esistano patologie di tipo glaucomatoso che si presentano anche prima in persone più giovani, ma non sono sicuramente la massa delle persone. Sicuramente il glaucoma è una di quelle cose che si possono, come dire, scoprire come tante altre cose. L'ipermetropia, ho sempre visto bene perché adesso non ce la faccio più e a 40 anni non ci si fa. Per esempio alcune malattie della cornea, vedi il cheratocono, quando avevo 20 anni ci vedevo benissimo, poi mi si è sviluppato questo strano astigmatismo irregolare. E il glaucoma è ancora peggiore da questo punto di vista, perché non è solo correlato all'età, ma è anche una cosa che nonostante l'età magari può essere completamente inavvertita. Io vorrei oggi dare la possibilità ai nostri ascoltatori da casa, soprattutto a quelli che hanno superato gli ANTA, di descriverci, raccontarci eventuali segnali, anche che magari quelli che legano all'età, che ritengono fisiologici, perché questo è vero nella maggior parte dei casi, ma in alcuni casi potrebbero essere un segnale, un sintomo che richiede magari un saltino dall'oculista per un controllo. Dottor Carassa, il glaucoma di cui parliamo oggi, tra l'altro giovedì 12 ci saranno molte iniziative in occasione della giornata nazionale e ve le segnaleremo nel corso della nostra trasmissione. Dottor Carassa, dicevamo che il glaucoma non dà segni, tanto che qualcuno l'ha soprannominato il ladro silenzioso della vista. Ma ci sono dei fattori di rischio e delle persone più a rischio? Beh, certamente. Il glaucoma, e stiamo parlando in questo caso del glaucoma più frequente, cioè glaucoma primario ad angolo aperto, è una malattia totalmente asintomatica, multifattoriale, cioè c'è una serie di fattori che concorre allo sviluppo di questa malattia. Sicuramente abbiamo appena parlato del fattore di rischio principale, di uno dei fattori di rischio che è l'età, cioè sì. Al crescere dell'età si è visto che aumenta la frequenza relativa della malattia. Ci sono delle caratteristiche individuali per cui sicuramente la familiarità, le persone che hanno dei familiari diretti che hanno la malattia hanno una probabilità nettamente superiore di andare incontro a questa malattia, si stima 5-6 volte superiore a una persona che non ha familiari. Abbiamo delle correlazioni con dei problemi sistemici, tipo soggetti che hanno la pressione del sangue particolarmente bassa, in particolar modo la diastolica, hanno una maggiore probabilità di andare incontro alla malattia. E poi ci sono delle caratteristiche specifiche oculari di cui il fattore di rischio principale è sicuramente

queste digitopressioni, qualsiasi crema olio non ci permette di fare la pressione come vorremmo, perché scivoleremmo sulla pelle. Il momento ideale, signor Corsi? Tutti i momenti sono buoni per questo tipo di massaggio. Se a noi piace il massaggio profondo e lo facciamo profondo, ce lo facciamo fare da qualcuno che ce lo fa profondo, forse è meglio non farlo immediatamente dopo i passi. Quindi una buona idea è un massaggio al giorno ai nostri piedi, meglio se riusciamo a farcelo magari dal nostro partner. Meglio ancora, perché sicuramente riesce a trovare una posizione più comoda per farlo di quella che probabilmente riusciremo a farlo per noi stessi. Signor Corsi, mi sento già sollevata. Intanto la ringrazio e la saluto. Buona giornata. Grazie, buongiorno. Pronto soccorso. E adesso torniamo ad affrontare il tema del giorno. Oggi parliamo di glaucoma, una malattia oculare molto frequente. Secondo i dati dell'Agenzia Internazionale Prevenzione della Cecità, si calcola che nel mondo circa 80 milioni di persone ne siano affette, 1,5 milioni in Italia. Ma quello che più di questa malattia fa paura è che, non dando segnali chiari, se non nelle fasi più avanzate, si può rischiare di essere malati senza saperlo. Arrivano tantissimi messaggi e già delle telefonate all'824 0024, tanti dubbi che cercheremo di risolvere insieme ai nostri esperti. Darei subito la linea a Michele, che ci chiama da Teramo. Buongiorno Michele. Buongiorno. Ci racconti, Michele? Dunque, io ho 45 anni, sono miope lieve, -2/-2 dall'età di 25. E mia madre soffre di glaucoma ormai da una decina d'anni. Lei ha 75 anni, è stata anche operata quest'anno di cataratta per cercare di ridurre la pressione, così le hanno detto. Io ho anche un po' di ipertensione lieve, è stata diagnosticata l'anno scorso, e volevo sapere se c'è rischio specifico o meno. Prima ho sentito un po' di risposte, ma avevo la radio che andava e veniva. Va bene Michele, ma la sua telefonata ci dà modo di puntualizzare alcuni aspetti. Ti parlavamo della familiarità, che è un fattore da tenere in grande considerazione. Abbiamo parlato di pressione, ma il dottor Carassa diceva non è la pressione alta quanto piuttosto la pressione bassa, giusto? Sì, per quello che riguarda il fattore di rischio, la pressione sistemica bassa può esporre di più un paziente a sviluppare la malattia. Ecco, Michele ci chiede, allora bene, io ho familiarità, che devo fare in pratica? Penso farsi controllare in modo continuativo. Sicuramente il nostro Michele sarà fatto controllare la pressione degli occhi e l'avranno trovata, immagino, normale, se no ce l'avrebbe detto. Sì. Questo però, come si diceva, essendo il glaucoma, approfittiamo per dire, una malattia di tipo multifattoriale, cioè da una parte c'è la pressione, ma non basta, perché almeno un terzo dei glaucomi hanno una pressione dell'occhio normale, quindi ci sono anche fattori, come dire, di tipo genetico, neurologici, neurotrofici, eccetera. Quindi essendo la pressione importante, ma non l'unico fattore, bisogna andare dall'oculista con una certa frequenza. Ora, a seconda delle persone, dell'aspetto clinico della singola persona, può essere una volta ogni anno, ogni due, a seconda dei casi. Soprattutto, per esempio, chi ha la mamma, così io direi una volta l'anno, forse all'oculista è meglio che vada, il quale provvederà a fare anche altri esami oltre alla misurazione della pressione. Roberto, quali altri esami per esempio potrebbero essere utili? Abbiamo appena accennato, come giustamente hai detto tu, che il glaucoma è una malattia multifattoriale. Questo significa che ha una serie di fattori di rischio. Ovviamente i fattori di rischio non sono la malattia. La pressione intraoculare è un fattore di rischio, ma avere la pressione alta non vuol dire avere glaucoma. Misurare la pressione ci permette di stimare il rischio relativo che una persona può avere nel tempo per sviluppare la malattia. Il glaucoma è una malattia del nervo ottico, e questo significa, per identificarla è opportuno che un oculista, una persona esperto, analizzi visivamente il nervo ottico per definire se questo è normale oppure se è patologico. Poi è possibile utilizzare dei test diagnostici più sofisticati, tipo macchine che analizzano lo strato delle fibre o il nervo ottico stesso, che ci permettono in modo adeguato di capire se la malattia è presente oppure assente. Quindi sicuramente la misurazione della pressione oculare è un esame da fare, da tenere sotto controllo. Potrebbe essere, quindi, perché l'aumento della pressione oculare può essere un fattore di rischio nello sviluppo di questa malattia? No, sicuramente. Io, tanto per dare un'idea un po' più, forse, come dire, più pratica, cioè se il mio oculista mi trova una pressione di 25 di pressione dell'occhio, diciamo la normale, prima, diciamo prima la normale, la normale, diciamo 11-12 fino a 17-18-20, e se non c'è proprio una, come dire, un numero oltre il quale sono dentro o sono fuori, se sono molto fuori, cioè ho 25 o 27, è ben difficile che io non possa avere assolutamente niente. Se però ho pressioni di anche 20-21 invece che 18, non mi devo necessariamente preoccupare, ma devo entrare in una fase, o per meglio dire il mio oculista deve entrare in una fase di ulteriori indagini o di ulteriori, come dire, osservazioni nel tempo, per vedere se io da che parte casco. Allora, sempre il tema rimane il glaucoma, ma noi abbiamo chiesto agli ascoltatori di segnalarci eventuali disturbi, in modo che voi come esperti ci possiate dire se possono essere considerati legati agli anni, quindi tra virgolette fisiologici, se possono essere considerati invece un segnale di allarme o che richiede comunque un controllo, se possono in qualche modo essere ancora considerati sintomi di questa malattia che abbiamo visto essere asintomatica nelle fasi iniziali ma che poi alla fine ci presenta il conto. Quindi ve li leggo in sequenza, vi leggo alcuni e voi mi rispondete. Quando osservo uno sfondo chiaro noto dei corpuscoli che si muovono tipo vermicelli. Siccome ho ricevuto risposte diverse da vari oculisti, devo preoccuparmi? Dottor Carassa. Questo possiamo forse metterlo insieme alle problemi che possono venire fuori con l'età. In realtà l'occhio al suo interno è una gelatina che tende a modificarsi nell'arco degli anni, a sviluppare degli addensamenti sotto forma di pallini, di filuzzi, che di fronte a una superficie molto luminosa, una parete bianca, si vedono, che fluttuano e vanno in giro. Non hanno assolutamente nessun tipo di segnale patologico, ma sicuramente altrettanto non hanno nulla a che vedere col glaucoma. Con il glaucoma. Dolore agli occhi, dottor Scialdone, più difficoltà a vedere bene le luci delle macchine, ci scrive Cesare. Anni, un inizio di qualcosa, un sintomo da indagare, cosa può essere? Ma diciamo può essere tutto e niente, tutto e niente. Però approfitto di questo per riferire il caso, un paio di casi visti di recente di manager milanesi molto occupati, 40-45, non ho il tempo di andare a farmi vedere. Però ogni tanto in quest'occhio di qua mi si annebbia per una giornata o due, mi dà un po' di doloretto e fastidio, ma non ci faccio caso. Vedo le luci annebbiate, per esempio di sera, soprattutto delle macchine, ma poi mi passa. Venuti per caso a farsi vedere, pressione 30. Quindi ma voi come fate a misurare questa pressione? Ci scrive Domenico. È un esame che voi dite non invasivo, ma in pratica? In pratica ci sono, diciamo, lo strumento più usato si chiama Goldman ed è un piccolo conetto di plastica che fa una pressione di qualche grammo sulla superficie dell'occhio, rileva una risposta da parte dell'occhio, diciamo grossolanamente come quando uno va al mercato e sente se le arance o sono mature, preme col dito e sente la risposta dell'arancia, fatto in modo grossolano, si fatto vede in modo che molto semplice, ma guarda ormai. Invece questo è l'esame, quindi un esame che non ci fa male, non ci dà fastidio. No. Adesso ci sono anche sistemi, diciamo, un po' più sofisticati di tipo digitale, dottor giusto? Carassa. Pascal, per esempio. Sì, ma diciamo che accennavi tu, il Goldman è lo standard, cioè viene messa una piccola gocciolina di un anestetico superficiale e questo conettino sfiora appena l'occhio in un attimo e si è in grado di capire qual è il valore della pressione, perché è totalmente indolore, estremamente rapido. Ci chiede Elena, secondo me una bella domanda che avrebbe potuto fare anche lei, dottor Scialdone, al dottor Carassa. La visita oculista deve essere specifica per il glaucoma o l'oculista durante una semplice visita può diagnosticarla? Bisogna vedere in che mani uno, cioè se la visita è scrupolosa o deve essere visita di routine secondo uno. Secondo me qualsiasi oculista che abbia un po' di anni di esperienza, eccetera, ovviamente, dando un'occhiata con un po' di attenzione mentale, si vede, diceva uno, si vede ciò che si è capaci di vedere. Quindi se dando un'occhiata al nervo ottico, a parte la pressione, si rende conto se quel nervo ottico abbinato o non a quella pressione, ci puzza oppure è una cosa, certo, del tutto. Però sottoporsi ad una visita, soprattutto dopo i 40, magari andiamo perché non riusciamo più a vedere bene, abbiamo bisogno, no? Iniziamo a diventare, certo, presbiti, sicuramente l'oculista ci fa tutti gli esami, certo, necessari per avere il quadro generale della nostra vista. Siamo tornati insieme. Prima di tornare ad occuparci del tema del giorno, oggi vi ricordo parliamo di glaucoma, una malattia che in silenzio può danneggiare la nostra vista, per cui occorre conoscerla per effettuare i controlli necessari che ci permettono di individuarla precocemente, prima che faccia troppi danni. Apriamo una parentesi perché voglio parlarvi di un'idea bellissima firmata Teleton, da sempre sinonimo di ricerca, da sempre alla ricerca di nuove strade per accrescere la conoscenza. In linea con noi il collega giornalista Franco Bonprezzi. Franco, ciao, benvenuto. Ciao Nicoletta, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori. Franco, la ricerca si fa vedere nel web. Certo, è una cosa davvero originale, nuova, voluta da Teleton. La diretta web sul sito uteleton.it. Anche oggi i tuoi ascoltatori, se vogliono, possono vedere che cosa combiniamo qui da Riva del Garda, dove è in corso la convention scientifica dei ricercatori di Teleton, aperta quest'anno per la prima volta anche ai presidenti delle associazioni di malattia genetica, di quelle malattie che vengono finanziate, la cui ricerca viene finanziata da Teleton. Questa sera dalle 6 in poi, dalle 5 in poi fino alle 11 di sera sarà possibile vedere in diretta che cosa? Un esperimento di nuova comunicazione. In pratica io mi è stato chiesto di venire qui a intervistare i giovani ricercatori, i presidenti delle associazioni, interagendo con chi da casa attraverso la chat e attraverso la produzione dei propri video può entrare direttamente e fornire il proprio contributo. Ti assicuro che è un'esperienza molto divertente e molto positiva. Lo credo, Franco. Qui c'è un clima, guarda, in questa convention strepitoso, perché c'è la sensazione che davvero siano in arrivo risultati importanti per la ricerca, e questo è il dato fondamentale. Ma c'è un clima di familiarità fra le associazioni e i ricercatori che è tutto da vedere. È davvero una grande restituzione di Teleton a pochi mesi dalla maratona per la raccolta fondi, e quindi è davvero un bel momento. Quindi un bel momento, perché questo è proprio un momento di confronto aperto a tutti, Franco. Esattamente, guarda, nel confronto vengono fuori ovviamente i temi che tu tratti tante volte nel tuo programma, cioè come sia difficile a volte avere dalla diagnosi di una malattia genetica in poi un percorso certo di cura, di assistenza e la speranza nella guarigione attraverso la sconfitta del male, che può essere soltanto garantita dalla ricerca scientifica. Quindi i ricercatori che in questa sede presentano i loro poster e il risultato della ricerca finanziata da Teleton si sentono, come dire, ancora più responsabili, perché vedono da vicino le famiglie, le persone, le incontrano. È uno scambio molto positivo. Bello, di energia. Guarda, Franco, energia. Io sono contenta di parlarne con te, perché questa idea mi sembra veramente un'idea avanti, come sempre, da sempre avanti Teleton. Franco, ricordo allora il sito www.uteleton.it. Franco, ti aspettiamo, mi raccomando. Certo. Ciao, buon lavoro. Abbraccio. Un abbraccio anche a te. Ciao Nicoletta. Allora, io vorrei riprendere rapidamente il discorso, no? Riprendiamo un po' le maglie di questo discorso che avevamo interrotto. Glaucoma, una malattia che non dà segni se non nelle fasi iniziali. Iniziamo dai controlli. Ci controlliamo la pressione oculare. Chi deve controllarla spesso? Le persone che hanno un familiare affetto da glaucoma. Corretto? Beh, spesso, ma diciamo tutti, come abbiamo detto, se non hanno mai avuto niente in passato, arrivano a una certa età, diciamo i 40, 41, 42, quello che sia, e cominciano a fare una visita oculistica. Ora poi sarà l'oculista a dire, in base ai segni, all'anamnesi, ai familiari e tutto quanto, se fare un controllo a breve oppure allungare un pochino. Certo. Nessuno se ne scordi del tutto, però. Bravo, questo, ecco, non dimentichiamocene. Andrei alle telefonate e poi vorrei che voi mi descriveste, perché come vede una persona affetta da glaucoma? Perché temo che un po' come facciamo con il nostro orecchio, quando noi non ci sentiamo, poi ci abituiamo. Non vorrei, ma questo dovete dirmelo voi che siamo oculisti, che uno progressivamente si abitui ad avere il campo visivo più ristretto e magari non riesce a raccontarlo. No, ma delle cose più importanti è la differenza tra la mancanza mancanza di sintomatologia, e quindi spesso nei pazienti con un glaucoma, con un iperte, che devono mettere un collirio, la mancanza di motivazione. Per cui dice, io, l'oculista mi ha detto di mettere sto collirio, ma perché se ci vedo bene? Roberto, ci dici un po'. Io prima darei del dottor Carassa darei la parola a Paolo, che ci chiama da Bologna. Buongiorno Paolo. Buongiorno. Ci racconti Paolo? Quanti Io anni ha Paolo? 43 anni. Bravo. Sono in cura già da svariati anni, oltre 10 anni, per l'ipertensione. Ultimamente, negli ultimi 2-3 mesi, premetto, ci ho sempre visto benissimo. Al mattino, specialmente al mattino, ma poi anche durante l'arco della giornata, ho delle difficoltà a mettere a fuoco. Sono una buona forchetta e anche un fumatore. Paolo, poi a Bologna come si fanno a non essere delle buone forchette? Dottor Carassa, lei concorda? Nell'essere una buona forchetta, sì. Assolutamente sì. Bene, è una... però a parte la forchetta, lui al mattino ha questi problemi a mettere a fuoco. Può essere un problema degli anni o lei come oculista gli consiglierebbe di fare dei controlli? Beh, allora, siamo qui che parliamo dei problemi degli anni e direi che ci siamo dentro tutti. Direi che purtroppo rientra in quella fascia di età in cui il problema di messa a fuoco inizia a diventare sempre più importante, diventerà sempre più importante negli anni a venire. È chiaro che la capacità che l'occhio ha nel mettere a fuoco tende a calare progressivamente nell'arco del tempo e, come tutti sappiamo, a un certo momento con la presbiopia è necessario l'uso di occhiali, per cui è molto probabile che la cosa sia relativa a questa. Ma questo può essere una buona occasione per fare un salto da. Però questo diventa una buona occasione, un'occasione fondamentale, perché esattamente la presbiopia viene fuori in quella fascia di età in cui possono esserci tutta una serie di patologie che devono essere escluse dall'oculista, per cui è un'occasione per fare quella visita generale agli occhi che ci permette di escludere i problemi che potrebbero anche poi diventare gravi. Andiamo da Alex, che ci chiama da Macerata. Buongiorno Alex. Buongiorno a voi. Voglio sapere subito l'età, Alex. 40 anni. Infatti noi ci rivolgiamo proprio a chi ha superato gli anta, ma non solo. Alex, ci racconti. Niente, io volevo chiedere ai vostri esperti, io non premetto che non ho mai avuto problemi di vista di nessun genere, solo che nell'ultimo periodo, circa un mesetto a questa parte, ho difficoltà a vedere da vicino, tipo che ne so, arriva un sms e devo allontanare il telefono per riuscire a leggerlo. La mia domanda era semplice, è legata all'età oppure devo preoccuparmi o fare un controllo o è una cosa naturale? Guardi, normale? Se lei chiede ad un oculista se deve fare un controllo, le dicono di sì, vero dottor Cialdone? Soprattutto... Certo, ma voglio dire, credo che il nostro ascoltatore si sia un po' risposto da solo. Sicuramente 40 anni è un po' presto per essere molto prima, ma rientra nella... quello che abbiamo detto all'inizio della trasmissione, che magari lui è già un po' ipermetrope, cioè ha già un difetto di vista, che in questo momento, passando un po' il tempo, eccetera, i muscoli oculari non reggono più e quindi anticipa un po' i segni e i sintomi. Quindi direi che con un controllo se la può cavare, magari anche con un occhiale da lontano forse. Comunque diciamo, questo poi non rientra proprio esattamente. No, ma in noi questo. Abbiamo dato proprio l'opportunità ai nostri amici da casa di capire se il loro disturbo poteva valer la pena di andare a farsi fare un controllo. Torniamo a raccontare come una persona che è affetta dal glaucoma vede male o come vede. Io. Ma allora, il glaucoma è una malattia che danneggia il nervo che porta la vista. Il nervo è formato da tutte queste fibre, ognuna delle quali porta un pezzettino di vista. Andando a perdersi queste fibre, la visione complessiva inizia ad avere delle piccole mancanze, che in realtà non sono dei buchi neri o delle macchie nere, ma semplicemente mancano dei pezzi nell'immagine che noi abbiamo. Facciamo un esempio, ad esempio. Facciamo un esempio. Io guardo diritto sul mio lato destro o lei, e se avessi il glaucoma è possibile che una parte o la sua faccia, una parte del suo corpo sparisca dalla mia immagine. Questo non vuol dire che ho un buco nero, cioè io vedo visivamente il nero, no. Ma vuol dire che manca un qualche cosa che in realtà c'è. In generale il glaucoma dà delle forme di danno che partono alla periferia del campo visivo. Questo vuol dire che se normalmente io guardando dritto vedo la mia mano tutta a lato, col glaucoma piano piano piano ho bisogno di portarla sempre più nella regione centrale per poterla vedere. Il problema è che il danno avviene in modo così lento che c'è un grossissimo adattamento da parte del paziente. E il paziente in realtà si accorge del problema visivo quando il problema visivo diventa così grave da garantirgli solo una piccola zona di visione come centrale. Se fosse un piccolo oppure se manca dentro al buco, certo, deve essere un buco. Oppure se mancano dei così grossi pezzi di visione e il paziente inizia a sbattere nelle cose, sbatti di lato, sbatti negli oggetti bassi. E questo direi sì, essendo giustamente, come dice Roberto, una questione di anni, si confonde poi con un adattamento all'età. Cioè questa cosa qui poi non è più il quarantenne ma è il sessantenne, il quale comincia a dire: beh, ma sto invecchiando, quindi è evidente che mi sembra che no. Questa sia un'informazione importante quella che stiamo dando, cioè di renderci conto che la nostra vista si riduce, no? Sì, il nostro campo visivo si restringe, proprio come ha fatto l'esempio il dottor Carassa della visione laterale della nostra mano, e quindi averne la percezione mi sembra che sia assolutamente importante. Esatto. Andiamo finalmente nella provincia di Brindisi, perché da un po' che ci aspetta Michele, buongiorno, l'ho fatta aspettare, mi scuso. Non fa niente, grazie. Ci racconti. Allora, io ho 55 anni, ho una familiarità, pertanto sapendo che questo può essere un problema, mi controllo con una certa frequenza. Sì. 3 anni fa però ho fatto anche in passato campo visivo, l'analisi del nervo ottico, roba varia, quindi tutto normale. 3 anni fa per caso ho scoperto di avere il glaucoma. E sì. Come? In passato mi controllavo solo ed esclusivamente nelle ore pomeridiane, poi un giorno per un caso mi hanno dato un appuntamento di mattina, e la mattina abbiamo verificato che la pressione su un occhio la pressione era fuori dalla norma. Sì. Abbiamo controllato nell'arco della giornata per 4-5 volte, nel pomeriggio ritornava normale. Quindi senza... una pressione ballerina, come esatto, succede un po' esatto, con la pressione arteriosa che in alcuni ho con la... no? Sì. E adesso ha avuto la diagnosi di glaucoma, si sta curando, sì. Michele? Sì, sì, è da 3 anni, i primi 2 anni ho usato dei farmaci, abbiamo alternato, non abbiamo ottenuto grandi risultati. Da 1 anno a questa parte invece uso un farmaco, sì, che per motivi sì, devo fare anche il piano terapeutico, pertanto diciamo che va meglio, è normale. Siamo tornati, Michele. Ecco Michele, allora abbiamo sentito la sua storia, venga la domanda così io metto al lavoro il dottor Cialdone e il dottor Carassa. Premesso che non ho nessun problema nel continuare alla cura, però mi dicono che si potrebbe arrivare anche all'intervento, e la mia domanda è questa: quando eventualmente è necessario l'intervento e se per un motivo o per un altro lo si può anticipare? Grazie Michele. Allora, 2 considerazioni vengono dalla telefonata di Michele. Prima, questa, gli esami tutto a posto, poi questa pressione un po' ballerina, al pomeriggio era normale, alla mattina invece alta, gli hanno fatto la diagnosi. E poi la seconda è: faccio una terapia, ma dato che c'è anche l'intervento, perché fare la terapia se non passare subito all'intervento che mi risolve la situazione? Poi abbiamo Luisa e Cesare. Dottor Carassa. Allora, in realtà, come accade per la pressione sistemica, una singola misurazione della pressione dell'occhio non è in genere sufficiente per stabilire che rischio il paziente ha di andare incontro alla malattia. Si fanno infatti delle curve addirittura che misurano la pressione ogni circa 2 ore per tutta la giornata per vedere qual è il profilo pressore, una specie di oltre la pressione dell'occhio. Per quello che riguarda la seconda domanda, attenzione, cioè la terapia del glaucoma è mirata a ridurre la pressione dell'occhio e portare la pressione a valori che mantengano la situazione costante nel tempo, come campo visivo e come nervo ottico. Per cui non ci sono delle differenze in quello che noi vogliamo ottenere usando farmaci, laser o chirurgia. In tutti e 3 i casi l'intervento o i farmaci servono ad abbassare la pressione dell'occhio. La scelta di che cosa utilizzare viene fatta sulla base della sicurezza. Ovviamente l'utilizzo di una goccia, se riesce a essere ben accetta e se riesce a portare il valore di pressione a un valore sicuro, è preferibile rispetto a farsi toccare l'occhio con un intervento chirurgico. L'intervento chirurgico pertanto è indicato nei casi in cui o coi farmaci non si raggiungono i valori che vogliamo, oppure se c'è un'intolleranza ai farmaci, oppure certo, se il paziente per vari motivi non li può o non li vuole usare. Andiamo a Luisa che ci chiama da Milano. Luisa, buongiorno. Buongiorno. Domanda e subito il dottor Scialdone le risponde. Via. Dunque, io ho 52 anni e mi hanno trovato la pressione oculare alta in rapporto allo spessore della cornea. Posso definirlo glaucoma? Quanto ha messo? Quanto ha, le hanno trovato di pressione? 24 all'inizio, adesso poi con i colliri sono scesa a 18, anche a 15, insomma la cura sta... La cura sta funzionando, questa è una buona cosa. Dottor Scialdone. Ma guardi, la differenza tra ho o non ho il glaucoma è sostanzialmente il fatto che in qualche esame o l'oculista trovi un qualche iniziale danno. Se io non ho una dimostrazione di un danno, sono una persona molto a rischio, quindi mi dovrò curare, come per esempio nel caso suo 24 di pressione, mi devo curare, ma non ho ancora la malattia conclamata. È un po' il discorso che posso fare con la glicemia. Certo, c'ho 110, sono ieri. Diabetico o non sono diabetico? Certo. Dipende, no? Allora, intanto prima che mi dimentichi, un'indicazione importante. Vi abbiamo detto che il prossimo 12 marzo è la giornata nazionale del glaucoma. Ci sono a disposizione delle visite gratuite per misurare la pressione oculare. I cittadini con più di 35 anni avranno a disposizione delle unità mobili oftalmiche che sosterranno in 8 città italiane: Roma, Milano, Firenze, Catania, Brindisi, Biella, Novara e Potenza. Sono dei camper attrezzati con ambulatori oculistici e l'iniziativa è stata organizzata ancora una volta dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Potete trovare le informazioni sulla nostra pagina di Essere Benessere e naturalmente collegarvi con il sito della IAPB. 800 06 85 06 è invece il numero verde. Abbiamo Cesare da Vicenza, qui chiedo di essere rapidissimo perché poi cambiamo argomento e parliamo di reni. Cesare, buongiorno. Buongiorno. Senta, la mia domanda è questa. Io soffro spesso di episcleriti dovute a un fattore reumatico, sono HLA-B27 positivo e vengo curato con colliri a base di cortisone. Sì. Volevo sapere se questo tipo di farmaco può può dare origine al glaucoma. Grazie Cesare. Dottor Carazza, sì, domanda, risponda Lampo. Sì, il cortisone, utilizzo cronico di cortisone in determinati soggetti cosiddetti cortico responder, può dar luogo a delle alterazioni nella zona di scarico dell'occhio con un rialzo della pressione e la creazione di un glaucoma cosiddetto da cortisone. Ecco, approfitto rapidissimamente. Sì? Cronico, ha detto Carassa, quindi cortisone non demonizziamolo però, perché è un farmaco essenziale per la cura di molte malattie. Bisogna stare attenti a quanto se ne usa. E poi non tutti i pazienti rispondono al cortisone. Fra l'altro. Allora, io vi ringrazio per essere stati con noi. Vi ricordo ai nostri amici da casa che se vogliono avere delle risposte specifiche possiamo naturalmente inviarle ai nostri esperti di oggi. Essere Benessere, radio24.it. State qui che vi saluto. Dopo, adesso saluto il dottor Giorgio Battaglia, primario di nefrologia all'ospedale Santa Marta di Acireale. Buongiorno. Buongiorno agli radioascoltatori. Giovedì, oltre alla giornata nazionale del glaucoma, si celebra anche la giornata mondiale del rene. In chiusura questa settimana diamo dei piccoli flash per conoscere e prenderci cura di questi organi. Ieri abbiamo detto che ci proteggono dai rischi cardiovascolari, noi possiamo fare qualcosa, possiamo aiutarli a lavorare bene e, come sempre e come spesso succede, la prevenzione passa anche attraverso quello che mangiamo. Dottor Battaglia, in un minuto, che cosa dobbiamo segnarci? Dobbiamo segnarci che le malattie renali sono killer silenti. L'Italia non deve finire come gli Stati Uniti nella deriva per l'obesità e il sovrappeso. Quindi l'abolizione del fumo, la diminuzione del peso corporeo, la riduzione dell'eccesso dell'uso di alcol, 10.000 passi al giorno, riduzione del consumo di sale nella dieta, riduzione dei grassi nella dieta e aumento del consumo di frutta e verdura ci danno un indice di quanto vogliamo bene ai nostri reni, al nostro cuore, al nostro sistema cardiocircolatorio, e vivremo più a lungo e meglio. Quindi piccole rinunce che alla fine ci aiutano a vivere meglio. Dottor Battaglia, io la ringrazio, ringrazio anche il dottor Scialdone e il dottor Carassa che sono qua in studio con me. Per oggi è tutto, vi do appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11. Vi aspetto, buona giornata.